Buongiorno, questo è Radio Left, il settimanale di approfondimento, la rubrica gentilmente concessa da Radio Radicale, che parla delle storie principali della settimana sul periodico Left Avvenimenti. Questa settimana le storie di cui parleremo sono due, gli ospiti sono tanti, quindi procediamo rapidamente. Sono entrambe molto importanti ed attualità. Una è un'inchiesta fatta da Left, da due bravi e giovani giornalisti, Rocco Vazzana e Rossella Nitori, che sono qui con noi. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Poi parleremo chiaramente, un argomento obbligato, della legge sul testamento biologico, stavo per dire ideologico, come dice uno slogan. Ne parleremo con tanti ospiti, con il dottor Mario Riccio, anestesista, divenuto famoso per il caso Welby, qui in studio con un altro giornalista, Federico Tulli, che saluto. Salve, buongiorno. E ci collegheremo anche con la senatrice Poretti, radicale, eletta nelle liste del PD. Con il sostituto procuratore di Roma Dall'Olio e con un altro medico, il neuropsichiatra, il professor Massimo Fagioli. Proseguiamo allora rapidamente. Iniziamo dall'inchiesta di Left di questa settimana. Allora, immaginate che siete una persona che tiene alla salute, non fumate, state attenti anche a quello che mangiate, quindi solo le cose del contadino vicino a casa vostra, in una zona ragionevolmente agricola, bevete il latte fresco delle mucche e dopo, a una certa età, andate a fare per una tosse fastidiosa le radiografie, e si vede una macchia ed è un tumore. Com'è possibile? Potreste essere abitanti di Colleferro, una zona qui nel Lazio, infestata da anni oramai da rifiuti industriali, scarichi e per ultimo da un caso scandalo che viene indagato questa settimana dell'inceneritore, anzi qui in Italia si chiamano termovalorizzatori, dell'inceneritore di Colleferro. Allora inizierei da Rossella Nitori, di cosa parla questa storia e cosa è successo a Colleferro? Allora, a Colleferro ci sono due termovalorizzatori, una discarica enorme e un polo industriale da 1.000 ettari con, diciamo, nei tempi migliori 8.000 addetti. A Colleferro c'è questo termovalorizzatore che è stato gestito per diverso tempo da una serie di personaggi che hanno in un qualche modo portato avanti una gestione criminale del termovalorizzatore, criminale perché veniva smaltito di tutto, non solo CDR, che è il materiale che normalmente i termovalorizzatori dovrebbero gestire, e con CDR intendiamo combustibile da rifiuto, ossia il rifiuto solido urbano che viene trattato, vengono esclusi determinati materiali. Allora, perché è importante cosa si brucia dentro un termovalorizzatore? È importante perché a seconda di quel che viene bruciato vengono emesse nell'atmosfera determinate particelle. Diciamo che il termovalorizzatore già di per sé rappresenta una questione aperta, poiché si scontrano su questa cosa diverse scuole di pensiero. C'è chi pensa che il termovalorizzatore ad adeguati livelli di filtraggio possa risultare non nocivo, e c'è chi invece pensa il contrario. Comunque, nel caso in questione, nel termovalorizzatore veniva bruciato un CDR che conteneva degli elementi che sono vietati per legge e quindi che possono portare danni alla salute e arrecare gli stessi all'ambiente. In questo CDR, che non è neanche giusto chiamare con questo nome, si trovava vetro, metalli, alcune plastiche, la frazione umida, si trovava un po' di tutto, si trovavano radiatori, si trovavano materassi, quindi era praticamente il rifiuto come il cittadino lo deposita nel cassonetto. Questo vuol dire che nei fumi che uscivano da questo inceneritore c'erano sostanze tossiche che poi si depositavano Certamente. nell'ambiente. Certamente. Sostanze tossiche, anche cancerogene, insomma, sostanze. Assolutamente sì, perché il termovalorizzatore non è deputato a bruciare quel tipo di sostanze, e già nel caso che bruci sostanze, diciamo CDR a regola, può immettere nell'ambiente particelle dannose, specialmente le nanoparticelle che non possono essere filtrate, una questione che ovviamente si aggrava bruciando rifiuti che, sono non selezionati. Bazzana, i controlli sono tanti, cioè ci sono controlli all'ingresso del termovalorizzatore, ma anche controlli all'uscita dei fumi. Come è stato possibile gettare qualunque cosa in quella fornace? Allora, sì, certo, diciamo che era un sistema complesso quello che era stato messo in piedi a Colleferro. Dalle indagini risulta che produttori, intermediari e riceventi avessero messo su proprio un vero e proprio sistema criminale. Un vero e proprio sistema criminale che faceva in modo che questo CDR, non qualificabile appunto come CDR o in alcuni casi di bassissima qualità, entrasse agli inceneritori grazie all'ausilio di istituti di analisi compiacenti che appunto facevano delle certificazioni false che poi permettevano a questa robaccia, monnezza come definita da alcuni operai che annotavano sui giornali di bordo diciamo le anomalie, questa monnezza entrava nell'inceneritore. Dai giornali di bordo risultano cose agghiaccianti, perché praticamente a quanto pare a occhio nudo era visibile che questo materiale non fosse roba buona. Un operaio dice è monnezza allo stato puro, è tale a quale a come si presenta nei cassonetti, significa che le buste sono buste e gli spazzoloni sono spazzoloni, cioè cose veramente inquietanti. A queste cose i dirigenti cosa rispondevano? I dirigenti rispondevano brucia pure perché abbiamo bisogno di carichi, perché c'era questa esigenza appunto di mandare, di produrre energia elettrica, legata ovviamente alla questione del CIP 6, perché si ricevono contributi statali dalla combustione di questi rifiuti. E come se non bastasse, non solo questo materiale era completamente scadente, in più, sempre dalle indagini risulterebbe che il SIC, il sistema informatico legato che deve misurare e controllare le emissioni dei fiumi inquinanti, veniva puntualmente manomesso dall'interno, quindi nessuno avrebbe potuto lanciare l'allarme, diciamo, nessuno avrebbe potuto sapere i reali danni che quell'inceneritore stava causando all'ambiente di Colleferro, ma anche a tutti i paesi circostanti, perché non sappiamo dove sarà l'incidenza reale delle emissioni. Certo, quindi scusa, all'ingresso le carte venivano falsificate. All'ingresso le carte venivano, secondo le indagini, tra l'altro molto materiale, cioè il GAIA, che è il consorzio di comuni che gestiva questi termovalorizzatori, oltre a falsificare le carte, aveva anche autorizzazioni all'incenerimento scadute. Oppure il materiale che entrava senza certificazione UNI, che è la certificazione che appunto sta lì a dire se il materiale è buono o non è buono, perché il CDR deve rispondere a dei parametri molto precisi stabiliti dalla legge. Certo. Però i fumi all'uscita, cioè cosa succedeva alla rilevazione delle sostanze tossiche? Alla rilevazione delle sostanze tossiche praticamente il monitor si oscurava, il monitor che doveva segnalare i parametri degli inquinanti si oscurava, quindi veniva manualmente manomesso per impedire che potesse registrare e quindi anche gli enti preposti al controllo come l'ARPA, la provincia, la regione non erano messi neanche nelle condizioni di poter verificare un eccesso di sostanze inquinanti e le emissioni. Ma questo vuol dire che anche oggi non sarà possibile ricostruire quanta e quando e quale immondizia è stata bruciata là dentro? Perché le prove sono state distrutte. Le prove sono state distrutte. Abbiamo delle cioè gli inquirenti hanno delle testimonianze, ad esempio la testimonianza dell'ingegner Nicolino Celli. L'ingegner Nicolino Celli lavorava all'interno del termovalorizzatore, però già da tempo aveva iniziato a collaborare col NOE, col Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri. E lui, tramite documentazione fotografica, documenta che lì dentro ci andavano radiatori, andava materiale metallico, materiale fili di rame, ci andava di tutto. Non sappiamo appunto il livello degli inquinanti, però alcune prove, anche lampanti, fotografiche e soprattutto da fonti attendibilissime, esistono. Gli inquirenti sono messi a disposizione degli inquirenti. Questa è una cosa che è venuta fuori quasi per caso, nel senso che un consigliere comunale ha denunciato questa cosa e a sua volta è stato denunciato da Sì. qualcuno, dal gestore dell'impianto, giusto? Certo, perché Leone del Ferraro, un consigliere comunale a Colleferro, aveva segnalato alcune anomalie relative alla gestione del sistema informatica nel consiglio comunale. Aveva fatto il nome di Paolo Meaglia, che è il direttore responsabile del termovalorizzatore. Questo Paolo Meaglia a sua volta l'aveva querelato. Da quell'episodio i carabinieri cominciano ad indagare. L'indagine è durata circa un anno e in questo anno sono state messe, insomma, in luce, diverse questioni e, si è arrivati al sequestro dell'impianto che è avvenuto in questi giorni e a un arresto, ai domiciliari per 13 persone. E diciamo a un'indagine più ampia sull'intero comparto amministrativo che coinvolge invece 25 persone. Ma per quanti anni è andata avanti questa vicenda, più o meno? È una cosa di un anno, 2 anni o sono... Per quanto riguarda quel che il NOE ha documentato, l'attività è di un anno e mezzo, ma non è detto che prima dell'inizio delle indagini le cose siano andate in maniera diversa. È possibile ipotizzare a ritroso che la gestione del termovalorizzatore sin da quando è stato, diciamo, Nel 96-97, sì. 97. no, nel 97 97 il inizia, progetto. nel 97 il progetto, nel 2000 apre i battenti, Quindi quindi inizia sono ad 8 anni che opera, sono 8 anni che Sì, brucia. diciamo che ci sono stati anche degli intervalli perché all'inizio non sapevo neanche come far funzionare questa macchina infernale, bisogna segnalare questo, che spesso c'erano più lunghi periodi inizialmente di inattività rispetto a quelli di attività, perché evidentemente, allora la storia del GAI è una storia complessa perché nasce come consorzio pubblico, un consorzio pubblico a cui aderiscono inizialmente 9 comuni che poi si allarga a 44 ed essendo consorzio pubblico gran parte delle nomine dell'apparato dirigenziale erano nomine politiche, diciamo. Certo. E quindi spesso poteva capitare che ci fosse magari del personale incompetente a gestire quei Ma termovalorizzatori. poi in particolare nella zona non c'è un impianto di CDR, No, giusto? questa è Non... la cosa più grave praticamente. Appunto, questo consorzio nasce per dare una risposta alla crisi occupazionale del territorio della Valle del Sacco e nasce con un progetto di un ciclo integrato dello dei rifiuti. smaltimento dei rifiuti. Ciclo integrato cosa vuol dire? Vuol dire che il rifiuto deve essere trattato dal cassonetto della spazzatura fino all'inceneritore, però passando attraverso dei passaggi specifici come quello della creazione dell'impianto del CDR. Il Consorzio Gaia cosa fa? Crea un piano industriale in cui è previsto la creazione dell'impianto per il CDR, prende un mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti con una cifra che si aggira intorno ai 31 milioni, dopodiché questo impianto non lo realizzerà mai. Non lo realizzerà mai e qui si torna ai giorni nostri praticamente. La gestione dei termovalorizzatori, cioè l'apparato, diciamo, tecnico che gestiva i termovalorizzatori, era costretto a comprare CDR da società esterne perché in loco non era presente un impianto del genere. E quindi, paradossalmente, gli abitanti di Colleferre della zona per cui l'impianto era stato previsto erano gli unici a non poter usufruire di un servizio, la termovalorizzazione, concepito per loro. Assurdo. Ma qui stiamo parlando, tra l'altro, di un territorio già ampiamente massacrato. Ci sono diversi studi epidemiologici sulla zona che dicono, in cui ci sono un tasso elevato, una concentrazione di diversi tipi di patologie respiratorie e tumorali, giusto? Sì, diciamo che gli effetti delle emissioni dei termovalorizzatori sulla salute non sono ancora noti, ma è certo che la qualità della vita nella Valle del Sacco non è delle migliori. Questi studi epidemiologici hanno evidenziato un tasso elevato di mortalità e morbosità per tumori, malattie cardiovascolari oppure legate all'apparato respiratorio in numero più elevato rispetto al resto dei comuni della regione Lazio. Ora, gli uomini sembrerebbero le vittime maggiori, questo perché gli uomini hanno sempre, diciamo, portato avanti i lavori in quell'area, un'area industriale in cui, ricordiamo, c'è questo polo industriale enorme che nei tempi migliori è riuscito ad impiegare fino ad 8.000 addetti. Sono stati impiegati in questi settori, settori come quello della chimica o nel settore ferroviario, che hanno in qualche modo compromesso la loro salute, e quindi sono frequenti, molto frequenti, drammaticamente frequenti casi di tumore. Dicevamo nell'introduzione, anche forse esagerando, che la persona che avesse mangiato, bevuto l'acqua locale, mangiato i frutti della sua terra e bevuto il latte delle mucche che pascolavano in quella zona, paradossalmente era più esposto, è stato più esposto alle malattie, a possibili patologie di un signore che andava al supermercato. Sì, certo, questa è un'altra variabile, un'altra storia, diciamo, che è quella, diciamo, che prende origine da una molecola, la beta-esaclorocicloesano, che è una molecola, una sostanza organica persistente derivata da rifiuti tossici industriali, derivata in particolar modo dalla lavorazione di un potente insetticida, il lindano. Questa molecola è stata trasportata, diciamo, da un buco nero dove tutti i rifiuti dell'area industriale confluivano dalle acque del fiume Sacco ai territori adiacenti, dai territori adiacenti al foraggio che gli animali che pascolavano nella zona mangiavano, dal foraggio è entrata nella catena alimentare e quindi all'uomo. C'è stato uno studio, un'estesa indagine di biomonitoraggio in cui sono stati, insomma, resi noti alcuni risultati sconcertanti, ossia quello che 246 persone, nel sangue di 246 persone è stata rilevata questa molecola, una molecola i cui effetti non sono ancora conosciuti, non si sa quello che succederà, non si sa che cosa porterà nel futuro, ma comunque è un qualcosa che nel sangue non dovrebbe, certo è tossica, nel sangue non dovrebbe circolare neanche in minima parte, e la concentrazione che è stata rilevata nel sangue di queste persone da studi epidemiologici risulta essere elevata. Perfetto, questa era l'inchiesta di questa settimana sul LEFT, su Colleferro, l'inceneritore di Colleferro e la situazione disastrosa ambientale della Valle del Sacco. Grazie a Rocco Vazzana e a Rossella Littori. Grazie a voi. Grazie. Adesso cambiamo argomento e parliamo della legge sul testamento biologico che è passata al Senato giovedì. Abbiamo in collegamento la senatrice Donatella Poretti, radicale, eletta nella lista del PD. Buongiorno e grazie di essere qui con noi. Buongiorno e grazie a voi. Allora, è passata al Senato questa legge a cui, insomma, tutto il mondo laico si è opposto con grande forza. Adesso la battaglia si sposta. Intanto cosa ne pensa e cosa poi pensa della battaglia al Senato? Ma guarda, devo dirti che non soltanto il mondo laico, ma a questo punto si è anche un po' ribellato al mondo cattolico, tant'è che il voto finale del Senato ha visto anche i cattolici del Partito Democratico, che hanno tentato fino all'ultimo mediazioni impossibili votare contro questa legge. Ha visto anche gli atei devoti alla Marcello Pera, che alla fine ha dovuto constatare e fare il primo ricorso di incostituzionalità a questa legge. Ecco, tutta questa molteplicità di voci forse davvero sottolinea che è una legge mostruosa, nel senso che di un mostro sia giuridico che scientifico. È una legge che sancisce l'indisponibilità della vita umana e dice quindi che è indisponibile per il soggetto, per la persona, che non può a un certo punto più disporre del suo corpo, e quella volontà che può esprimere nel corso della vita alle terapie, quell'accettazione di terapie, quel consenso alle terapie e ai trattamenti sanitari, a un certo punto perde quel diritto perché perde la capacità di esprimerlo, anche se casomai in precedenza aveva detto io in quelle condizioni non voglio dei trattamenti. Quindi insomma la legge è davvero pessima, e io mi auguro che ci si possa fermare un attimino ora a riflettere. Quella moratoria su cui aveva lanciato e su cui si era impegnata Emma Bonino, spero che a questo punto davvero questo appello alla moratoria, alla ragionevolezza possa davvero realizzarsi. Ecco, senatrice, a proposito di mostruosità, dunque in un articolo di Simona Maggiorelli di questa settimana, appunto la collega ci ricorda che la sottosegretaria al welfare Eugenia Roccella ha definito Eluana una grave disabile capace di conservare immagini e ricordi in qualche parte della sua mente. Ecco, di fronte a considerazioni del genere, che poi comunque vengono trasmesse su carta sotto forma di una legge truffa, come l'ha definita Rodotà, o ideologica, o testamento ideologico, come l'ha definito lei, come si può difendere la politica? Quali sono gli strumenti a disposizione? Io credo che davvero ci dobbiamo difendere come singole persone, come singoli individui. Purtroppo poi la politica e quindi quello che avviene nel Parlamento e nel Senato, in alcuni momenti sembra appunto che le persone si dissocino completamente dal loro pensiero e agiscano un po' come delle macchine e votino completamente in piena dissociazione dal proprio cervello. Queste dichiarazioni di Eugenia Roccella sulla disabilità purtroppo non sono una prima volta, che le avevamo purtroppo già sentite proprio nei momenti, nelle giornate più calde su Eluana Englaro. Tant'è che siamo arrivati al punto in cui la legge, proprio nel passaggio sull'alimentazione e l'idratazione, laddove si nega che siano trattamenti sanitari e quindi li si impongono per legge nel momento in cui uno perde la capacità di poter esprimere il consenso, ricordo che oggi l'idratazione e l'alimentazione non possono essere imposte a nessuno se non c'è il consenso della persona. Proprio in quell'articolo in cui si nega che l'alimentazione e l'idratazione siano dei trattamenti sanitari si fa un riferimento alla Convenzione ONU sulla disabilità. C'è stato un momento molto lungo e anche approfondito del Senato in cui io per prima mi sono appellata a togliere questo riferimento alla Convenzione ONU sui disabili, perché si sovrapponevano due concetti e due proprio figure giuridiche completamente diverse. Una cosa è una persona disabile, altra cosa è una persona incapace di intendere e di volere. Sommare, mischiare i due piani e le due cose è davvero pericolosissimo, anche perché vuol dire che tutte le persone che hanno una disabilità diventano delle persone incapaci di intendere e di volere. Per certi versi è un qualcosa davvero di raccapricciante che ci fa fare un tuffo indietro in millenni proprio nel passato, in cui una persona che aveva una disabilità era considerata non più una persona. Appunto, c'è stato un momento in cui l'uomo ha visto gli schiavi che non erano persone. Chiaro, ma senatrice, chiariamo intanto una cosa, la legge non riguarda diciamo i casi Welby, quindi persone coscienti, malati terminali che sono in grado di esprimere la loro volontà, riguarda le persone in stato vegetativo permanente, giusto, che non sono in grado di esprimere la loro volontà. La legge non si sa più che cosa riguarda, perché insomma la legge doveva disciplinare i casi Eluana, diciamo, no? Doveva disciplinare le dichiarazioni anticipate di volontà, cioè la persona che non è in grado di esprimere il consenso, se lo lasciava scritto prima, e quindi su questo doveva intervenire la legge, come doveva lasciarlo scritto, dove doveva lasciarlo scritto, sì, dove queste dichiarazioni si potevano fare, dove si potevano ritrovare, tutto quanto, ecco, di questo avrebbe dovuto occuparsi la legge. E quindi nel caso in cui uno perdeva la capacità di esprimere il consenso a dei trattamenti, si poteva andare a riprendere quella dichiarazione anticipata e farla entrare in vigore, quindi a quella, diciamo, far riferimento, chiaro, sì. Far riferimento il medico nel momento in cui quella persona non poteva esprimersi. Questo doveva riguardare la legge, poi purtroppo la legge ha spaziato su altro, appunto l'indisponibilità della vita umana, il trasformare dei trattamenti sanitari in altro da quelli che sono, e poi si dice che però questa dichiarazione anticipata di volontà, che non è vincolante e che il medico può prendere in considerazione, ecco, può prenderla in considerazione anche per disattenderla, soltanto nel momento in cui una persona entra in uno stato vegetativo permanente, il che intanto riduce di tantissimo la platea dei soggetti che potrebbero essere interessati, perché ci sono anche delle persone che sono incapaci di esprimere il proprio consenso a delle terapie, ma che non sono in stato vegetativo. Chiaro, a malati terminali anche di un tumore al cervello, per esempio, e quello non è in stato vegetativo, e quindi a lui, ma comunque, appunto, visto che poi tanto viene presa in considerazione, ma per essere disattesa, diciamo, poco dovrebbe interessare a questo punto quando è che entra in vigore, o meglio, quando è che viene presa in considerazione. Chiaro, no, quello volevo chiedere, sì, è il mio medico, diciamo, il mio medico curante che mi conosce, che sa come la penso, con cui ho discusso di questa cosa, a decidere, perché è una cosa così grave che venga delegato a lui, nel caso in cui io fossi incosciente, la decisione ultima, finale? Attualmente la legge, diciamo che attualmente la situazione è questa, nel senso che in qualche modo è la famosa zona grigia quella che prevale, no? Quella in cui c'è il medico, ci sono i familiari e c'è il paziente, o il ricordo che si ha del paziente di quelle che erano le sue volontà. La legge fa altro, la legge cioè doveva dire quel paziente può lasciare scritto in anticipo cosa vuole, e il medico dovrebbe tenerlo in considerazione e rendere esecutive quelle volontà del paziente. La legge però non è che dice che l'ultima parola spetta al medico, perché laddove dice che se uno entra in stato vegetativo deve essere intubato e alimentato forzosamente, quella non è neanche più la decisione del medico, ma è la decisione dello Stato e della legge, che ha imposto con i numeri del Senato questa decisione anche sul medico. Quindi l'ultima parola non è al medico, non è vero quello che c'è scritto sui giornali, è falso? No, l'ultima parola, perché non il Corriere è, cioè, il medico, venerdì il medico titolava: può disattendere la dichiarazione anticipata di trattamento, questo può fare il medico, può disattendere. Ma quando si dice che se entra in stato vegetativo non può non essere sottoposto a alimentazione e idratazione forzata e artificiale, il medico su questo non ha voce in capitolo, perché deve per forza eseguirlo. No, perché ieri il più grande quotidiano italiano, il Corriere della Sera, titolava biotestamento decide il medico. Non è vero, è una cattiva informazione. Su alimentazione e idratazione non decide il medico, ma ha deciso la legge. Chiarissimo. Un'ultima domanda, ecco, le chiederei adesso, il DDL passerà alla Camera nelle prossime settimane. Voi radicali nel PD di recente avevate annunciato battaglia dal punto di vista referendario, però la vicepresidente del Senato Emma Bonino ultimamente invece sembrava avesse pensato ad altri strumenti di lotta nei confronti di questo nuovo testo. Insomma, che cosa ci aspettano le prossime settimane, e che cosa succederà nel caso in cui, purtroppo, come sembra, dovesse entrare in vigore questa legge? Ma noi come radicali non si è mai preannunciato una battaglia referendaria, casomai c'è stata un'iniziativa pubblica dei radicali in cui il senatore Ignazio Marino ha detto: beh, è l'ultimo passaggio, se proprio questa dovesse diventare legge e dovesse entrare in vigore, non si esclude che possa anche passare dal vaglio dell'opinione e dei cittadini attraverso un referendum. Nessuno esclude questa come possibilità, però io credo che in questo momento dobbiamo davvero tutti concentrare le nostre forze perché questa non sia una legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Per il momento ha passato soltanto il vaglio del Senato, che non è poco, però diciamo era ormai scritto da quella notte in cui è morta Eluana Englaro e in cui è stato ritirato il decreto disegno legge, insomma, sì, del governo. Ormai stava scritto che quell'atto e questo testamento biologico e questa legge sarebbe stata fatta dal Senato e questa sarebbe stata portata al congresso fondativo del Popolo per le Libertà. Io mi auguro appunto che una volta che l'abbiano anche fondato questo partito che si appella con il nome della libertà si rendano anche conto che cosa sia la libertà e mi auguro appunto che la Camera in realtà lo cambi. Ricordo anche che questa legge comunque non sarà retroattiva, quindi per il momento ci stiamo anche impegnando nel cercare di raccogliere i testamenti biologici delle persone. Io per quanto mi riguarda con molta fatica l'ho fatto al Senato e l'ho lasciato agli atti del Senato. Dopodiché saranno molteplici le strade, nessuno esclude il referendum, però insomma bisogna anche vedere intanto che legge viene fuori, che tipo di altre possibilità di iniziative ci sono. Appunto ricordavo ieri che il primo ricorso alla Corte Costituzionale per incostituzionalità l'ha fatto il senatore Marcello Pera. Io credo che sia al momento una legge incostituzionale e quindi non escluderei anche quella forma lì, però appunto sono molte le possibilità di iniziative da mettere in piedi ora, prima che diventi legge. Senatrice Poretti, grazie tante, grazie per essere stata con noi in trasmissione. Grazie molto, arrivederci. Grazie a voi. Allora, siamo in collegamento con il dottor Mario Riccio, anestesista che opera a Cremona, divenuto famoso giustamente durante la vicenda Welby. È qui con noi in collegamento, lo ringrazio, lo saluto. Buongiorno, dottor Riccio. Allora, ieri il Senato ha votato il disegno di legge, se dovesse passare alla Camera la stessa legge che lei senz'altro conosce, quali sarebbero gli effetti, le implicazioni pratiche per il lavoro del medico? Ma guardi, intanto io posso dire così ironicamente che c'è spazio perché la legge peggiori ulteriormente, in quanto nel dibattito dei tre giorni che c'è stato in Senato ho sentito parlare anche espressamente di altre terapie che dovevano essere vietate nelle dichiarazioni anticipate, tra cui la ventilazione, tanto per tornare su un argomento noto. Ora, il problema di questa legge, così come si legge, è l'interpretazione, perché è talmente vaga, con termini talmente vaghi e astratti, che tutto sommato ognuno può estrarci quello che vuole. Le faccio un solo esempio: nell'articolo 1 c'è un passaggio in cui si dice che l'attività medica è finalizzata esclusivamente alla tutela della vita e della salute. A questo punto è chiaro che tutte le possibilità terapeutiche, se finalizzata l'attività medica alla tutela della vita, dovrebbero essere indirizzate in tal senso. Tra l'altro c'è un'altra contraddizione fra le tante: il ragionamento col quale viene esclusa la nutrizione artificiale dalle terapie è perché è definita sostegno vitale. Sì. Io come animatore sinceramente non conosco una sola terapia che in un reparto di animazione non si possa definire sostegno vitale, perché non saprei come definire diversamente il ventilatore, non saprei come definire diversamente la trasfusione di sangue, non saprei come definire diversamente la dialisi, non saprei come definire diversamente l'antibiotico terapia e poi tutta una serie di farmaci che molto spesso permettono il sostegno dell'attività cardiaca, proprio che diventano praticamente dei veri e propri sostegni vitali. Ecco, per capire per le persone comuni, allora la legge non avrebbe impatto, cioè non cambierebbe la situazione in un caso come quello di Welby, giusto? In cui la persona è cosciente esprime la sua... Secondo me la lettura, ripeto, è talmente vaga, cioè ha un po' del vaticinio della Sibilla Cumana, cioè ognuno può leggere quello che vuole. Io ho letto quell'articolo dove si chiarisce che l'attività del medico è finanziata unicamente alla tutela della vita, pertanto... E poi si fa anche un riferimento ai articoli di codice penale che riguardano il suicidio assistito, l'eutanasia, il suicidio consenziente. Quindi di fatto sembra quasi capire che se il medico sottrae, se il medico interrompe o non inizia alcune forme di terapia, di fatto va incontro al divieto espresso in questa legge, che chiaramente va contro a sua volta, nel caso Welby, nel caso Inglaterra è molto chiaro, va contro a sua volta le disposizioni attualmente presenti, e questo va chiarito. Però la legge, anche se tutti fanno riferimento esclusivamente alle casi di stati vegetativi permanenti, la legge lo tratta, però dice che le dichiarazioni anticipate trattamento trovano massimo risalto nello stato vegetativo, però di fatto l'interpretazione è molto ampia, ecco, e questo potrebbe avere un impatto ovviamente inimmaginabile sulla vita ordinaria, quotidiana dei reparti di area critica. Però mi scusi, nel caso diciamo di Luana, il fatto di aver trovato come terreno di mediazione tra la linea diciamo oltranzista filo-vaticana e quella invece liberale laica, di aver trovato un terreno di mediazione sulla figura del medico, per un medico come lei non dovrebbe essere una cosa scandalosa, giusto? Beh, io trovo molto scandaloso che si sia cercato una mediazione, perché le leggi sui diritti civili non possono trovare mediazioni, nel senso che se avessimo fatto una mediazione per venire incontro a chi in Italia è contrario al divorzio, avremmo dovuto dividere tra coppie a cui si riconosce il diritto a divorziare e altre a cui non si riconosce questo diritto. Quindi sui diritti civili non ci può essere mediazione. L'unica mediazione è che chi è contrario al diritto civile riconosce che la legge permette soltanto di esercitarlo a chi lo vuole e non lo impone ad altri. Non so se sono riuscito a spiegarmi su questo. Sì, sì, è chiarissimo, certo. Il fatto di rimandare al medico, ancora una volta ricadiamo innanzitutto in una medicina paternalistica da cui dovevamo allontanarci con una certa velocità, e invece ricadremo in questa medicina paternalistica. E di fatto poi si contraddice, perché non si capisce perché in una situazione in cui il soggetto, il paziente, deve comunque essere il medico a decidere sulla base di questo concetto falsato e male interpretato dell'obiezione di coscienza, che è un discorso molto delicato, ma un discorso che non si fa in questa maniera, cioè si fa in un'altra maniera. Cioè, però questi sono casi in cui il paziente non può esprimere un giudizio, quindi si al momento in cui si trova, certo, ma può averlo espresso prima. Ecco, no, io volevo riportare un attimo la valutazione a quello che avviene in tutto il mondo questi principi sono stati riconosciuti, cioè che la volontà del paziente, se è espressa in maniera attuale, ovviamente non dà adito a alcuna interpretazione. Vedi il caso Welby, che invece in Italia dette adito a una serie di considerazioni, non soltanto etico deontologiche, ma anche giuridiche, cioè c'è chi riteneva che per Giorgio Welby non poteva richiedere l'introduzione della terapia ventilatoria. Nel caso in cui il paziente non è più in grado di intendere di volere, caso Luana Englaro, è stata ormai acclarata da tutta la giurisprudenza internazionale e peraltro anche in Italia, questo è già possibile farlo, infatti la soluzione del caso Englaro lo chiarisce, che la volontà del paziente può esprimerla prima di perdere questa capacità di intendere di volere. Cioè, chiariamo, non c'è un vuoto legislativo, non c'era un vuoto legislativo in questa legge da colmare, c'è assolutamente un pieno legislativo, uso l'espressione della dottà, se no diversamente la Corte di Appello e così la Cassazione non si sarebbero pronunciate, perché a differenza di quanto ci fanno credere tali istituzioni non hanno inventato una legge, perché se avessero avuto dei dubbi sarebbero rivolte alla Corte Costituzionale. Ma mi sembra che non ci siano assolutamente dubbi nelle vicende circa la volontà del paziente. Però ci sono altri casi in cui al medico, e mi sembrerebbe anche in maniera abbastanza logica, viene comunque delegata una capacità di giudizio e anche di decisione. Cioè, tanti casi in cui, per esempio, pensavo a un caso in Puglia tempo fa, in cui il medico sulle cure rispetto per un bambino i genitori si opponevano, il medico ottenne la patria potestà temporaneamente dal giudice. Un esempio ulteriore di autoritarismo, paternalismo e sostanzialmente di violenza, nel senso che lì ci fu tutta una serie di incomprensioni, diciamo così, per essere diciamo benevoli nei confronti dei medici, che vollero imporre e ottennero dal magistrato di turno la possibilità di imporre un trattamento perfettamente futile, inutile. Ecco, chiariamo un'altra cosa, il termine accanimento terapeutico, più volte citato nella legge, è un termine che non è inesistente, cioè vuole definire qualcosa di indefinibile, non lo usa più nessuno nella letteratura internazionale ovviamente si può definire cosa è futile. Lei ha accettato il caso in cui la dialisi che fu imposta a questo povero neonato era assolutamente futile, infatti questo neonato fu sottoposto a queste ulteriori violenze per una decina di giorni, poi morì. Ecco, è un trattamento futile e inutile, questo si può definire la medicina, cosa è futile e inutile. Certo. Ieri in quel dialogo, in quel dibattito che ho sentito io al Senato, è venuto fuori anche un tentativo di inserire un emendamento che era assolutamente demenziale, in cui si scriveva che se il paziente non può più assorbire la nutrizione, in quel caso era giusto sospenderla. Ma mi sembrava una cosa ovviamente di buon senso. Certo. Ovvio, un paziente senza polmoni è inutile collegarlo a un respiratore, ma è stata una cosa tragicomica, infatti l'ho anche scritto in un commento di un quotidiano stamane io, perché quando poi ho sentito che qualcuno voleva proporre che la nutrizione fosse sospesa laddove il paziente non poteva assorbirla, mi sembrava veramente qualcosa di... Però scusi, ipotizziamo un caso, ammetto magari rarissimo, dei genitori folli, malati, oppure che credono in una cosa particolare per cui si oppongono a delle cure invece vitali per un bambino. Quello allora, non è... questo esempio le rispondo subito, voglio fare una premessa. Utilizzare però per una legge generale, parlare di casi particolarmente... diciamo i casi limite, specialistici, quali sì. Sono i minori e i psichiatrici, è sempre un po' fuorviante. Detto questo, è ovvio che se il genitore impedisce la trasfusione al minore, è chiaro che il genitore può per se stesso, fino al varo di questa legge, rifiutare la trasfusione, poi ci sarà un problema, ma ovviamente non può imporre al bambino, per quanto sia suo figlio, di sopravvivere a una banale emorragia. In questo caso ovviamente si fa quello che si chiama in letteratura anglosassone il best interest, cioè il migliore interesse per il paziente, datosi che il bambino ha 7-8 anni, è chiaro che non può essere credente in una religione, perché si dà per scontato che al di là diciamo di quelle che possono essere delle convenzioni, ma si dà per scontato che il bambino non comprenda che lui morirà se ne rifiuta la trasfusione. In questo caso, solo in questo caso, il giudice solleva i parenti per il solo aspetto terapeutico della patria, della potestà genitoriale, e fa trasfondere il bambino. Questi sono casi già avvenuti mille volte, ovviamente, questo è ovvio. Quando questo bambino sarà grande e avrà 18 anni, poi disporrà, ma intanto è ovvio che il best interest è la sopravvivenza del bambino, che ovviamente non può entrare in questa diatriba di tipo religioso-culturale. Certo, va bene. Dottore, io la ringrazio tanto per il suo tempo. Grazie, buon lavoro. Figuri, grazie a voi, buonasera. Allora, adesso abbiamo in collegamento con noi il professor Massimo Faugioli, neuropsichiatra, docente all'Università di Chieti, che si è espresso sui giornali, nella sua rubrica sul Left, ma anche molto in televisione e in radio ultimamente, sul fine vita, sull'inizio vita e in particolare sulla vicenda di Luana in maniera molto netta. Professore, buongiorno, grazie buongiorno, di essere qui con noi. Buongiorno. Lei ha detto chiaramente che Luana era morta 17 anni fa, sì. più chiaro di così. Sì, ho seguito, appunto con la premessa che ho detto anche ad Omnibus, che noi parliamo sempre per sentito dire, che sa effettivamente come sono andate le cose, è il medico curante, è da monte, per cui effettivamente né Buttiglione può dirmi che aveva il cervello funzionante, né io poi con certezza assoluta posso dire che no, perché noi parliamo per sentito dire, bisogna vedere effettivamente quali erano le cose, perché a proposito di Luana sono state dette le cose più turche, le cose più terribili. Ora lì noi da lontano dobbiamo parlare per principio, e il principio fondamentale che ha accettato anche il Catholicum Buttiglione è che la vita cessa quando cessa il funzionamento del cervello. Su questo non ci sono dubbi. Nei vari casi di malattie come la sclerosi laterale, amiotrofica, eccetera, in cui c'è la paralisi del corpo per cui il corpo non può vivere, però il pensiero funziona. Ora, non si può obbligare una persona a continuare 3 mesi, 6 mesi di sofferenza se questo non ha un motivo. Un caso identico a Welby, dico, potrebbe dire no, io anche se sono completamente paralizzato, per Welby non ha vita perché non ha senso stare a soffrire in questo modo per altri 6 mesi senza nessun fine. Un'altra persona potrebbe avere l'esigenza, con la stessa malattia, la stessa situazione di paralisi, di dettare un libro, di fare qualcosa, se ha delle idee, eccetera. Quindi la stessa situazione nell'un caso, e nell'altro caso si cercano soluzioni completamente diverse. Certo. Questo non si può stabilire a priori, chiaro, con la legge. È detto chiaramente, eccetera, che non, perché uno, non sono casi generali, due, credo che non sia latente, non sia che sia invece assolutamente evidente, che questo parte da un principio religioso, è un principio religioso che negli atei e magari neppure anche persone buddiste, eccetera, eccetera, di altre religioni condividono, cioè che la vita non è dell'essere umano, no, la vita è dell'essere umano, inizia come fatto biologico, ma non è accettabile che lo Stato imponga un pensiero di una religione per cui la vita è quella che ha fatto Dio, quindi l'uomo non la può interrompere. Non è vero, non è assolutamente vero. Certo, qui però ci sono dei casi particolari, perché esistono dei casi e dei campi in cui il legislatore in generale si è arrogato il diritto di imporre una volontà. Nello specifico, lei opera nel campo della psichiatria e della psicoterapia, per esempio in quel campo chiaramente la regola dell'autodeterminazione salta, cioè il trattamento salta sanitario. Esattamente, per questo dico, lo Stato non può fare una legge generale uguale per tutti, la legge che fa lo Stato è uguale per tutti, no, anche perché a parte il principio che non puoi imporre un pensiero religioso che molte persone hanno il diritto di non condividere, ma anche perché viene ad intervenire su quello che dicevo chiaramente, il rapporto medico-paziente, e il medico è abilitato all'esercizio della professione mediante esame di Stato, cioè lo Stato gli dà la libertà assoluta di operare, di muoversi, di decidere, cosa si tratta di fare nei singoli casi, dalle 10 iniezioni o 5 soltanto, all'operazione, all'appendicite, eccetera, eccetera. Questo del fine vita in particolare porta il rapporto medico-paziente a livelli più profondi, per le ragioni che ho detto prima, la stessa situazione in cui bisogna accettare la libera volontà del paziente, di un Welby, che dice no, non ha più senso che io stia a soffrire per altri 6 mesi. In un altro caso, Riccio, che ha avuto il coraggio e la responsabilità di staccare la spina a Welby, perché lì si è creato un rapporto medico-paziente in cui sono d'accordo che non avrebbe più senso, e quindi non ha senso per te la vita, e quindi non è vita, non c'è. In un altro caso, lo stesso Riccio, sono sicuro che si comporterebbe in maniera diversa se può proporre e stimolare qualcosa per cui questi anche 6 mesi di vita servono, hanno un senso nella misura in cui sanno fare qualcosa. La cosa diventa ancora più grave per quello che c'è nato, e col problema della psichiatria, se viene da me uno che si vuole buttare dalla finestra, momento, io prima di aprire la finestra mi devo chiedere se per caso questo è un depresso. Il depresso, come si sa, tende al suicidio. Ma non è che io posso rispettare la libera volontà dell'individuo. Io mi devo opporre in maniera assoluta che questo realizzi la depressione, cioè la distruzione di se stesso. Certo. Perché c'è la cura. Nel caso di Welby la cura non c'è. E non c'è un avvenire, una speranza, un lavoro da fare. Quella è una situazione cronica, quindi le decisioni sono assolutamente diverse. E di volta in volta, anche se uno è paralizzato, per dire la cosa più semplice, bisogna vedere se è depresso o no. Quindi è questo, non lo può stabilire il Parlamento, non lo può stabilire un mucchio di persone, adesso che Fini non si arrabbi, che però sono filosofi, sono ingegneri, sono letterati, sono politici di professione, che ne sanno del rapporto medico-paziente, stabilito in base a principi che magari sono della religione cattolica. E no, questo non è, non siamo nello stato religioso, non siamo in una situazione di questo genere, dovremmo essere in uno stato democratico. Certo. Cui il medico ha la facoltà di produrre lesioni. Se poi sbaglia, e anche questo non lo può stabilire il Parlamento, se sbaglia lo può stabilire il magistrato. Per cui è chiaro, ci sono tante operazioni che hanno un livello di rischio altissimo, per cui il paziente si opera, il medico fa la sua professione, ma il paziente muore, questo è fatto comune. Se in qualche caso invece dipende dall'imperizia, dalla negligenza e dall'ignoranza, che sono le tre colpe del medico, non lo può stabilire a priori il Parlamento, per cui togliere il sondino è reato, lo deve di volta in volta stabilire il magistrato. Chiaro, premesso, però volevo provare ad andare, e qui siamo in chiusura, purtroppo il nostro tempo è esaurito, però una domanda sulla dimensione forse più culturale, perché se da un lato c'è la linea intransigente del Vaticano, dall'altro c'è un'altra linea altrettanto intransigente rispetto a certi principi, che è quella classica liberale. Il dibattito sul potere del medico e la critica al potere della medicina è un dibattito che era molto forte negli anni 70, primi anni 80, che oggi ogni tanto riecheggia nelle parole anche di tante persone di sinistra, laiche, cioè non si può dare tutto questo potere al medico. Era una cosa che diceva anche il dottor Riccio, diceva sì, è giusto, la persona si deve autodeterminare. No, c'è un po' di ideologia in questo? Distinguerei anche in questo caso. Perché innanzitutto il medico che opera un appendicite e guarisce un paziente non è potere, è abilità, è capacità, è rapporto con l'altro a livello di un, scusa la parola, amore che va al di là della carezza e della consolazione e dell'affetto. È un fare che porta alla salute, all'identità e alla vita dell'altro. Questo in fondo è anche abbastanza accettato, si può pretendere. Dove si casca è in questa cultura di 60 anni in cui quello che non si vuole ammettere è la psichiatria, non si vuole ammettere che uno sia depresso e che quindi anche in quel caso il medico deve intervenire in un certo modo, a livello chirurgico magari, eccetera, per cui impedire anche con la forza che il paziente si butti dalla finestra. Chiaro? Se il paziente è un vecchio di 90 anni che appunto non ha più senso la vita, vada pure, ma se ne ha 25, no. Questa liberalità più o meno sessantottina o illuministica, per cui ognuno è disposto, eccetera, ma sei un malato, ma sai meglio di me che negli ultimi 60 anni si è abolita l'idea della malattia mentale. Invece la malattia mentale c'è. Per cui anche lo stesso Welby, se prima avesse parlato con un psichiatra per vedere se era depresso, non avrebbe fatto male. Per vedere, allora, il depresso si cura. La sclerosi laterale amiotrofica no. Certo. Ma la depressione sì. E questo però è scomparso dalla cultura medico-psichiatrica. E purtroppo è scomparso anche dall'illuminismo, è scomparso anche da questo atteggiamento liberalità assoluta, per cui uno è liberissimo di suicidarsi. È liberissimo di suicidarsi? Oppure no? E non mi fate dare ragione al cattolico Buttiglione. Uno è un individuo, ma è anche un essere sociale, senza dar ragione a Buttiglione, posso dar ragione a Marx. L'uomo, per sua natura, è un essere sociale. Quindi se c'è una situazione di malattia deve fare i conti con il rapporto con gli altri. Non è solo, chiaro, o non dovrebbe essere solo. Chiaro. Ecco dove io, pur essendo completamente d'accordo che ognuno decide della propria vita, perché la vita è un fatto biologico e non è fatta da Dio, è chiaro, però a questo punto io ho le mie idee sul rapporto interumano e sulla medicina, in particolare sulla faccenda che la malattia mentale va affrontata e curata. Non è che non esiste, esiste soltanto il disturbo, l'arrabbiatura o la tristezza perché un appuntamento con una ragazza è dato male. No, esiste la malattia mentale e quella bisogna affrontarla. Professore, il nostro tempo è finito, la ringrazio d'accordo, tantissimo. Grazie a voi. Grazie, buongiorno. Grazie. Allora, il nostro tempo è veramente finito, siamo andati lunghissimi oggi, gli argomenti erano importanti e coinvolgenti, qui con me in studio è rimasto Federico Tulli fino a quest'ora. Un saluto a tutti. Grazie a Federico Tulli, grazie a tutti per averci ascoltato e alla prossima settimana.